sul tavolo e il tirava giù in mudanza e il faceva in somme stende, la portava in suo campo. L'ha mai veduta in accesa, l'ha mai cupata in sen, del treve l'ha scondi con la bottiglia e coi sottoni. Sgarlava in disagoggio per pagare un bianco a un maluchen, rubava in una villa per crompasso un motoren. Scappava dai gendarmi e dai soneu e il nava al cimitero e poi portava bianco i fiù. Grazie, però abbassa fus e pele.